dalla lettera del danzatore Doug alla musica. Signora, voi che suonate nell'aria e ci toccate le corde dell'anima, perdona i nostri fratelli inciampati che le possino e dacci la nostra cassa quotidiana. Che ritmo. Sei sintonizzato su M2O, qui c'è Gigi D'Agostino, con te, con voi, con me, si sta insieme, insomma. Quello che mi piace. Ogni sabato dalle 2 alle 4 del pomeriggio siamo qui a fare festa. Muovi la testa. Wey, stai sintonizzato? Non ti distare. Ascolta e balla e ascolta. Non ti distare. L'altro giorno pensavo, no? E quando penso poi dopo ci ripenso, e quindi adesso volevo anche pensare insieme a voi, e pensavo a quei momenti di imbarazzo, no? Quando che si esce a cena fuori magari e c'è lui e lei e si dicono un sacco di cose belle, si toccano la mano e si promettono delle cose, insomma è tutto molto bello, no? E poi quando la cena o il pranzo finisce, no? E si va lentamente verso la cassa, ma non la cassa quella il tamburo, la cassa quella per pagare, e lì si creano sempre delle scene un po' così imbarazzanti, perché di solito lei prende la borsetta e va già, cioè non si dirige neanche verso la cassa, va direttamente verso il bagno. E non ho mai capito perché in quel momento, come dire, urgono certi bisogni, no? Si chiamano così. Però così è. Oppure c'è quella che molto serenamente dice: scusa un attimo, faccio una telefonata, e si avvia immediatamente verso l'esterno del locale col telefono in mano per chiamare nessuno, secondo me. A chi devi chiamare? Vieni qui, Zocco. Uè, Conte, ma quando sei volgare? Tu senza impegno, però mi piace. Tu serve una composizione. Tu c'è il senza impegno. Tu arrivederci. Dove vai? Tu c'è composizione. Tu senza impegno. Tu serve una composizione problematica. Senza impegno. Tu dai, parti. Tu è una composizione. Tu senza impegno. Però mi piace. Tu serve una composizione problematica. Tu c'è il senza impegno. Tu arrivederci. Dove vai? Tu e c'è composizione. Tu senza impegno. Tu serve una composizione problematica. Stai ascoltando il Conte, la musica del Conte. Dai, forza un po', tutti insieme. Prepariamoci a saltellare. Ogni sabato pomeriggio qui su M2O si zomba. We'll be right back. Attenzione, entriamo nella seconda camera della nostra mente. Si sente? Si sente. Si sente. Attenzione. Entriamo nella seconda camera della nostra mente. Pubblicità, ci andiamo subito dopo. Quello che mi piace. Il teatro elettronico del sabato pomeriggio. The last that I ever seen your ass. You know this old guy down.

momento shake, molto serio. Altissima categoria. Attenzione. Ogni sabato pomeriggio qui su M2O si zomba. Avete presente quella leggerissima brina che si vede la mattina quando usciamo di casa ancora un po' assonnati? I need to hold you. I wanna be. paio di settimane fa vi avevo letto alcuni risultati di una ricerca molto profonda, di altissimo livello, una delle mie ricerche. Si trattava di alcuni titoli di film del genere Bambi, diciamo. E ne ho trovato un altro molto interessante, molto simpatico. Prendete nota. Il film è molto interessante. I neri per casa. E è forte questo. Questo non ve l'aspetto, cioè questi per casa non ve li aspettavate. Quello che mi piace. Il teatro elettronico.

M2O, ogni sabato pomeriggio, ospita il Conde Drag. Pure bellezza. C'avremo M2O, ciò. C'avremo la gente, tanta bella gente. C'avremo il salam. C'avremo tante belle cose da mangiare, ciò. C'avremo le campagne. E c'avremo. Per fortuna, eh. Che piccio. Rivista femminile ci sono alcuni consigli rivolti alle donne. Primo appuntamento: gli errori da evitare. 1. Non accettare il primo invito. Se lui ha interesse, non demorderà e sicuramente lo farà anche un'altra volta. Però attendere quei 10 minuti accademici prima di uscire da casa per fare aumentare il desiderio. Aumenta anche l'incazzatura, secondo me, comunque.

danza. Cammina con la danza. Musica. Musica. Cammina con la danza. Con la danza. Música. La danza. Ora entriamo con moltissima attenzione nella camera 3 della nostra mente. Yo, what's up with this slow down beat? Damn man, what is this? Ma guardiamoci ben intorno. What is this? Is this what you tell is called lento? I'll give you something. And while we have it, let's give it a new name, right? In certi luoghi si possono fare strani incontri. Check it out. I'll show you how we rock. Let's give him something new. Here it is. Lento. Is this what you call lento? Is this what you Italians call lento? Let me show you how we do our thing. I'm the sound. poi questo è un genere nuovo, si chiama style. La musica sta a come cazzo dice? Sei puta la la, sei puta la la, sei puta la la, sei puta la la, sei puta la la, sei puta la la, sei puta la la, sei puta la la, sei puta la la, sei puta la la. Farsi venire a prendere a casa o altrove al primo incontro. 4. Far scegliere a lui il luogo del primo appuntamento. Allora, al punto 3 dice farsi venire a prendere a casa, e al punto 4 dice far scegliere a lui il luogo del primo appuntamento. Questa non sta benissimo. 5. Proporre di uscire anche in una seconda occasione insieme ad altre persone. Due coglioni. Amici dell'uno, dell'altro o di entrambi. È importante anche valutare come si è tra la gente e come ci si relaziona a livello interpersonale. Cioè, si tromba mai. D'Agostino, quello che mi piace. Basta che stiamo insieme.

quello che mi piace. Tra i consigli utili che questa rivista dà alle donne c'è, siamo al 6, scegliere un abbigliamento sobrio e non particolarmente appariscente o sexy. Ma perché? 7, non tartassare il giorno successivo con telefonate o inviti. E cosa c'è se uno gli viene, cioè il giorno dopo, no? Che sei presa bene e vuoi sentirlo, vuoi scrivergli qualcosa, cioè perché no? Non mostrarsi sempre disponibili. Ogni 2 appuntamenti prendersi una serata di libertà da trascorrere a casa in relax oppure con le amiche. Sì, ma se c'hai voglia di vederlo, perché, cioè, perché uno poi deve pilotare in questo modo? Right. Ancora un po' di consigli. Un segreto. Cioè, orecchie aperte, eh? Svelarsi poco alla volta. Questa sì che è la soluzione. Qualunque sia la situazione e chiunque sia la preda, che schifo. In genere, dopo i primi momenti di imbarazzo, che fa anche rima, si finisce inevitabilmente con il parlare di sé e con il fare domande all'altro. Per forza, no? In entrambi i casi la parola d'ordine è equilibrio. Ancora grazie a sto cammino. Meglio, cioè, evitare discorsi troppo lunghi e domande a raffica. Alle proposte fatte dal nuovo partner, meglio reagire rimanendo più vaghi, tipo perché no? Cioè, te immagini, lui che dice scusa, girati un attimo, perché no? Oppure aggirando l'ostacolo. Ecco, vabbè. Aggiralo pure. Proponendo altre attività, però, in cui ci si sente più a proprio agio. Ma senza mettere paletti, giustamente, perché sennò poi, capito, uno si sente, cioè lui poi si sente tagliato fuori, no? E senza mettere paletti e divieti prematuri. Quando si parla di sé o si risponde a domande sui propri gusti, il consiglio è di non svelare tutto e subito, ma di utilizzare espressioni che aiutino a non sbilanciarsi troppo, tipo interessante, oppure piacevole, oppure anche a me piace questo. Vabbè, va. Musiche, eh? They put it on tape and then the city got tested. I write my mind while I'm cool in my mansion. They put it on tape and then the city got tested. I write my mind while I'm cool in my mansion. They put it on tape and then the city got tested. I write my mind while I'm cool in my mansion. They put it on tape and then the city got tested. a voi, ma a me piace. Time just for my home, all your time just hold me tight when I look into your eyes. I've been waiting for your love. I've been waiting for your love. Hold your life just for the best. To be the reason, share with you my freedom, steal a ray of soul. Stars are shining.